in primo piano. E si andrà avanti che per chissà quanti giorni con le nuove intercettazioni, i nuovi sviluppi. Vediamo innanzitutto i titoli principali. Bertolaso, resto al mio posto, questo è il Corriere della Sera. Appalti, nelle carte la pista mafiosa, questo per Repubblica. Bertolaso, resto al mio posto, anche per il Messaggero. La Stampa, Bertolaso non cede, resto. Per Libero, è scattata la trappola dei PM, in arrivo altro fango. Per il Giornale, Mani Pulite, versione carnevale. Per l'Unità, la festa continua, ci sono Bertolaso e credo di spalle l'imprenditore Diego Anemone in una foto. Comunque Bertolaso in una foto, lui è riconoscibile, l'altro non molto. La festa continua. L'apertura del Sole 24 Ore economica è PMI, piccole e medie imprese, uscita lenta dalla crisi. Vedremo, perché ci sono delle notizie importanti, per la verità non molto rassicuranti, anche con un'intervista al presidente della piccola industria di Confindustria Boccia, proprio sulle piccole e medie imprese. Ma come detto, io l'ho detto anche ieri, ci vorrebbero 10 rassegne stampa solo per le intercettazioni, gli sviluppi, a leggere tutto quello che viene pubblicato sui giornali. Intanto sulle intercettazioni noto che c'è un corsivo in prima pagina del Corriere della Sera, non firmato, quindi forse attribuibile al direttore Ferruccio De Bortoli o comunque alla direzione, insomma la linea editoriale del Corriere della Sera, in cui proprio di fronte alle presunte critiche, alle probabili critiche che peraltro ci sono sulle intercettazioni spiattellate sui giornali da giorni, scrive, si legge in questo corsivo: la verità è che non è ancora chiaro il quadro delle accuse rivolte allo stesso Bertolaso. Da giovedì 11 febbraio il Corriere sta pubblicando le intercettazioni che, una volta messe agli atti, sono da considerarsi di pubblico dominio. E poi è vero, è un'indagine in cui c'è il rischio che finiscano coinvolte persone la cui unica colpa è avere parlato al telefono con chi aveva il cellulare sotto controllo, ma anche le chiacchiere in ogni caso servono per farsi l'idea di un pezzetto d'Italia che si vorrebbe migliore. Ed ecco allora le chiacchiere, le intercettazioni, ovviamente il giorno dopo il fatto della corruzione contestata al coordinatore del PDL Denis Verdini. Eccolo ancora, pagina 9 del Corriere della Sera, che parla con tale Fusi, vale a dire uno degli uomini, l'imprenditore Riccardo Fusi, che avrebbe ottenuto degli appalti. E c'è questa frase, insomma, ti richiamerà Bertolaso, te sollecita, poi semmai intervengo io. Ma ci sono anche altre persone coinvolte. Per esempio, il boss imprenditore rivela: sono entrato a Palazzo Chigi. Questo a pagina 4 di Repubblica, è il nuovo fronte, con addirittura un imprenditore di Cosa Nostra che arriva a Palazzo Chigi, scrive Paolo Berizzi. E un giudice, Giuseppe Tesauro, che è in società con un funzionario ministeriale e anche imprenditore legato al clan dei Casalesi. Questo sarebbe il nuovo fronte, insomma, il Giuseppe Tesauro, che è giudice costituzionale dal 2005, è stato anche presidente dell'antitrust fino al 2004. Stando alle carte, scrive Repubblica, Tesauro risulta socio dal 2007 di Antonio Di Nardo, funzionario del Ministero delle Infrastrutture e socio occulto del consorzio di costruttori stabile Novus. Nelle 20.000 pagine del rapporto saltano fuori anche i nomi di Gianfranco Miccichè, Marcello Dell'Utri, ma i nomi si sprecano e se ne trovano davvero di tantissimi. C'è da dire che Riccardo Fusi, che è l'uomo imprenditore che avrebbe ottenuto aiuti da Denis Verdini, il coordinatore del PDL, si difende a pagina 2 di Repubblica in un'intervista. Ho chiesto una mano a Denis, certo siamo amici, ma non ho mai pagato un euro. Grande escluso, altro che grande corruttore, ecco cosa sono io, non ho mai pagato un euro, neppure ho raccattato lavori. Andate a vedere la Maddalena, non c'è neppure un muretto tirato su dalle mie imprese. Gli viene anche contestato il fatto che lei va con un collega, Piscicelli, imprenditore, quello che nella telefonata ha intercettato, che rideva col cognato il giorno del terremoto, per una spesa di 10.000 euro da regalare a un dirigente pubblico, De Santis. Siamo andati a fare shopping, io andai con lui, ma l'orologio, uno, lo ha pagato lui. Ci sono anche queste foto che ieri sul Corriere l'hanno pubblicate di un acquisto di un orologio, dei due che escono da una gioielleria con una busta, e poi questa stessa busta era in mano a questo Fabio De Santis. Vabbè, trovate davvero moltissimo, bisogna andare di corsa anche oggi. Vi segnalo solo che Balducci, Angelo Balducci, l'uomo arrestato, considerato la mente, il motore di quel sistema gelatinoso di pilotaggio di appalti, dal carcere, e questo lo sappiamo perché è andato a trovarlo il senatore del PDL Luigi Esposito, dalla Stampa si legge: Balducci parla dal carcere, è tutto un grande abbaglio. Poi si commuove: non faccio che pensare a mia moglie e a casa. Insomma, qual è la situazione? C'è una nuova Tangentopoli, c'è una corruzione che sta aumentando. Il ministro La Russa ne parla al Corriere della Sera, pagina 6, un'intervista a Paola Di Caro. E dice: dobbiamo certo stare attenti. È vero che emergono una serie di episodi stranamente tutti assieme in periodo elettorale, ma è altrettanto vero che non sono fatti inventati. Ci sono personaggi finiti nelle inchieste e non si capisce bene perché. Ci sono strumentalizzazioni, però con certi episodi bisogna fare i conti. Ed ecco lì la proposta: per esempio, grande attenzione sulle candidature, le cosiddette liste pulite. Su Verdini, dice La Russa, ha fatto benissimo ad andare al magistrato, la sua posizione è inattaccabile. E su Bertolaso, che dice: rimango al mio posto, a quanto ci risulta, dice La Russa, sia su di lui che su Verdini si parla di episodi totalmente marginali. E poi ecco quella, la vicenda, insomma, corruzione. Siamo a 18 anni da Tangentopoli, dall'inizio di Mani Pulite. È vero che esiste un nuovo malcostume, dice La Russa, ma è vero che è qualcosa che appartiene non alla classe politica in quanto tale, ma alla nostra società. Vanno scemando i valori del rispetto della legalità, della moralità, dai tifosi allo stadio, ai sindacalisti, dall'imprenditore, il militare, il poliziotto. Si assiste a comportamenti che stupiscono e lasciano a dir poco perplessi. Questa teoria di La Russa è anche la teoria di fondo dell'editoriale in prima pagina del Corriere della Sera di Ernesto Galli della Loggia. Cioè, c'è corruzione? Sì, c'è corruzione come, anzi più di allora, ma la verità, scrive Galli della Loggia in questo editoriale dal titolo «La corruzione e le sue radici, le colpe non sono tutte della politica», La Loggia fa una teoria molto forte. La verità è che è l'Italia la causa della corruzione italiana. Lo si può dire senza rischiare l'accusa di lesa maestà? Si chiede Galli della Loggia. Chi si ostina a credere che il problema è politico, che tutto si riduca a destra e a sinistra, lo sa che le tangenti continuano a girare vorticosamente anche nel privato, che dappertutto qui da noi, quando ci sono in ballo, non si dà, quando ci sono soldi in ballo, non si dà e non si fa niente per niente. Lo sa chi dice questo che i concorsi più vari sono in misura maggiore o minore manipolati, riservati agli amici, protetti quando non direttamente truccati. Lo sa a quale schieramento politico addebitare il sistematico taglieggio che da noi viene praticato da tutti coloro che offrono una merce o un servizio al pubblico, come le società autostradali, le assicurazioni, le compagnie telefoniche, le compagnie petrolifere, quelle aeree, le banche, le quali tutte possono a loro piacere fissare tariffe esagerate, imporre contratti truffaldini, balzelli supplementari, clausole capestro. Insomma, il tema di Galli della Loggia è questo: sì, c'è corruzione, ma non è la politica, è l'Italia, bellezza. Questa la dico io, siamo un paese così. Oh, Tangentopoli, c'è una nuova Tangentopoli, questo è il nostro sondaggio, per Libero è scattata la trappola dei PM. E tra l'altro Maria Stella Gelmini scrive una lettera al direttore Belpietro dicendo: noi siamo puliti, non finiremo come i socialisti. Si riferisce al gesto del consigliere Pennisi a Milano, che tradisce il mandato dei cittadini, ha detto, scrive Maria Stella Gelmini. Ma Maurizio Belpietro in questa risposta dice: vietato illudersi, l'offensiva è solo all'inizio, tanto che ci sono già le analisi sui vari giornali dopo appunto queste inchieste che sono nate. Addirittura, secondo Francesco Verderami, si sta pensando già al dopo. Berlusconi starebbe già pensando al dopo, cioè un'inchiesta che piomba nella partita per l'eredità. Tanto che, scrive Francesco Verderami in questo articolo a pagina 3 del Corriere della Sera, la vera posizione ora nel mirino, il vero politico nel mirino in questa inchiesta è Gianni Letta, che potrebbe essere il futuro, Letta, Fini o Tremonti, il futuro. Il catalogo dei successori è tra questi tre, secondo Francesco Verderami, anche se si legge su altri giornali come Italia Oggi e come Il Riformista che ancora una volta Berlusconi avrebbe indicato Alfano come suo successore. Però certo è già strano il fatto che si parla in queste inchieste, legate a queste inchieste, già i politologi, gli studiosi, i notisti parlano di possibile successione, di quello che succederà quando ci sarà questa inchiesta andrà avanti. Gli affitti record della Camera, spesi 54 milioni l'anno per uffici e segreterie. Voglio chiudere la politica e le grandi paginate di politica con questo che trovate su Repubblica. Si deve molto alla radicale Rita Bernardini, che è giunta al 16° giorno di sciopero della fame, perché aveva chiesto tempo fa, da radicale e da onorevole, alla Camera di sapere quanto si spende per i fornitori. E la Camera faceva ostruzione, cioè non dava neanche a un deputato questi dati che per tradizione vengono tenuti segreti. Giunta allo sciopero della fame, 16° giorno, e per intervento del presidente Fini, così dice la stessa Bernardini, finalmente le è stato consegnato l'elenco dei fornitori della Camera. E allora, Montecitorio spende per gli affitti 54 milioni di euro, la ristorazione 7 milioni e mezzo, la prevenzione dagli incendi 2 milioni e 800 mila euro, per acquistare nuove tappezzerie, arredi, targhe, cartelli 1 milione. 10 milioni per gli atti parlamentari, dalla stampa alla pubblicazione online. L'ufficio tecnico di Montecitorio ha un budget di 17 milioni e mezzo, servono anche per gli ascensori. I corsi di lingua straniera per gli onorevoli, dall'inglese al russo, 500.000 l'anno. Questi i dati più significativi, ma li trovate tutti snocciolati a pagina 11 di Repubblica. I costi della politica, un grazie personale a Rita Bernardini, che è riuscita a farsi dare questi dati. Insomma, saremo nella trasparenza e quindi è bene che si sappiano, senza nessun qualunquismo, senza nessuna polemica. I dati sono lì, poi uno se li legge, se li studia e si fa l'idea che vuole. Voglio andare all'apertura del Sole 24 Ore, come detto, dedicata alle piccole e medie imprese. Uscita lenta dalla crisi, la difficoltà dell'accesso al credito, questo è l'elemento centrale sempre per le piccole e medie imprese, non solo italiane. I tanti no dei banchieri che frenano la ripresa delle PMI, si legge a pagina 2 del Sole 24 Ore. C'è anche un'intervista a Vincenzo Boccia, vale a dire il leader della piccola industria, di Confindustria, che tra l'altro non è per nulla ottimista. Dice: agli istituti chiediamo trasparenza, in primavera le aziende presenteranno i bilanci 2009, un annus horribilis per tutti. E qual è il timore? Il timore è sostanzialmente il calo dei rating, anche perché molti istituti hanno comunicato che dal 2007 al 2009 il livello di sofferenza del sistema bancario è quintuplicato, dice Boccia in questa intervista a Franco Vergnano. E poi anche per quel che riguarda il futuro e il rischio di accentuazione del credit crunch, dice Boccia, se gli istituti di credito si limiteranno a mettere rigidamente in pratica Basilea 2, basando le valutazioni a carico delle aziende in funzione dei soli indici matematici, credo che la situazione sia destinata a peggiorare. Insomma, quindi questo l'allarme lanciato dal presidente leader della piccola industria di Confindustria sul Sole 24 Ore. C'è anche molto dei retroscena per la candidatura alla Banca Centrale Europea di Mario Draghi. L'Italia ha il meglio per la BCE, parte questa candidatura che per la verità si concretizzerà nel giro di vari mesi, e Tremonti ha detto: abbiamo un candidato italiano, si riferisce ovviamente a Mario Draghi, che è in lizza col tedesco Alex Weber. L'Italia, quando si porrà la questione, ha e avrà un ottimo candidato, e dunque queste sono le strategie per il futuro della finanza centrale europea che leggiamo a pagina 5 del Sole 24 Ore. Voglio andare a un tema che trova molto risalto, è addirittura l'apertura di Avvenire, vale a dire sulla pedofilia e questo problema all'interno della Chiesa. La pedofilia offesa a Dio. È il Papa Ratzinger che ha incontrato i vescovi irlandesi e ha lanciato questo sprone, questo monito durissimo. C'è anche un editoriale dal titolo Una severa lezione, la fede giudicata col cuore dei più piccoli, di Pierangelo Sequeri, in prima pagina dell'Avvenire, appunto. Un crimine insopportabilmente odioso, un peccato gravissimo che va a ferire il midollo della persona nei piccoli dell'uomo. Il Papa, per tutta la Chiesa, va diritto al punto. L'abuso sessuale di minori devasta un'esistenza, anzi, molte, compiuto da ecclesiastici, religiosi, cristiani, tradisce orribilmente il patto fiduciale iscritto nel rapporto educativo. E dunque queste parole, ma anche questo cambio, insomma, di strategia, verrebbe a dire anche politica, molto netto all'interno di Avvenire, abusi sessuali, un crimine che ferisce la dignità umana, ora basta, deferiremo i colpevoli. E tra l'altro anche sull'Unità c'è il teologo Filippo Di Giacomo che fa a pagina 21 un'intera pagina proprio ad analizzare quella che è una vera rivoluzione copernicana, la definisce Filippo Di Giacomo, affidare alle autorità civili il compito di far luce sui fatti di pedofilia dentro la Chiesa. Ve lo segnalo, è una bella pagina, un bel commento di Filippo Di Giacomo, La giustizia terrena del Papa, lo trovate sull'Unità a pagina 21. Mi devo fermare, voglio chiudere con Sanremo, ma sì, dai, chiudiamo con Sanremo, con, vabbè, viene definito un po' un super mega flop, chi lo sa, ma voglio andare sul secolo XIX, perché è il Sanremo di Morgan o non Morgan, è il Sanremo di Morgan purificato non dalla droga, ma purificato perché potrà comparire oppure no. Intanto, il secolo XIX cosa ha fatto con l'inviato Marco Menduni? Così ho comprato la cocaina davanti all'Ariston. Mentre Rai e politici condannano Morgan, l'inviato del secolo ha potuto acquistare droga a pochi metri dal teatro dove si svolge il festival. C'è un intero resoconto a pagina 43 di come Marco Menduni si è cacciato un po' nei vicoli attorno al teatro Ariston e in 448, in mezz'ora, è uscito con la pallina di cocaina in tasca, 80 euro pagate, ma si trova di tutto, ecstasy, hashish, marijuana, eroina, tutto quello che volete. A gestire tutto sono magrebini nei vicoli proprio a due passi dal teatro Ariston. Beh, interessante, provocatorio anche, ma efficace. Così ho comprato la cocaina davanti all'Ariston sul secolo XIX.